pareggia il Futita o perde comunque, non deve pareggiare per forza a vincere. Però se il Milan pareggia, anzi il Milan deve per forza a perdere, Mikla. Sì, sì, sì, anche un pareggio per battere il Milan perché c'è un punto avanti. Capito? Però se disgraziatamente perde col Sassuolo e l'Inter vince, già godo poco. Cazzo, lo vai in Milania, ma oggi ho i milanisti contro, prima gli juventini, tutti i milanisti contro, cazzo, i crimini bobo, su Maria, come carità, e vabbè, comunque. A me non mi è trovato in busciacca, poi. Ascolta una cosa, allora, adesso come sono ricordato, per avesse avuto il microfono, il PMR e l'LPD. Allora, l'LPD lavora in 433, giusto? L'LPD sono frequenze secondarie amatoriali, lasciale perdere. No, vabbè, sto dicendo, 433 e 33, giusto? Sì, sì, come dove lavoriamo noi? Noi, io, la mia frequenza in UHF è 433 550, capito? Quindi le stesse frequenze amatoriali. Mentre gli PMR lavorano a 446. Vabbè, ecco, PMR è 443. No, giusto per sapere, no. Perché non capivo la mola là, ma cappa. Andava, facciamo mobile ieri, mi metto l'autospegnimento. Se sgancio pure, dai. Sgancio una fuggita, ecco qua. Sgancio pure io, che no, che è un forno, beh. Ci sentiamo lo stesso, non c'è bisogno, me la fotti noi. KK, adesso è al massimo, com'è? Ola! Antonio, come ti arriva a te? Vediamo se è giusto lo smitter, uguale a questo. Provate. 1, 2, 3, prova. 20, stava modulare, e 21 modulati. KK, già andendo, là, siamo bianco, cazzarola, guarda, troppo caldo, mamma mia, lo spengo. Quasi. Vabbè, sgaccia tu, sì, uguale anche a me, Antonio. 20, 21, 22 modulati, dai, non aumenta molto. Sono precise le radio, di a carattere la stessa persona. Raga, io vi saluto, vado a guardarmi la TV. Dai, un abbraccio a tutti, ciao Luca, Antonio, Antonello, complimenti ancora per il nuovo acquisto, stai arrivando fortissimo e benissimo. E ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. Ciao, buonanotte a todos. Ciao, ci sentiamo. Buonanotte. A domani. Ciao, buonanotte a domani. Saluto a tutti, ciao. Ciao, passo e chiudo. Eccomi. Andiamo con questa che è meglio, va. Ma non è poco, zinco in più. 5-6 in più non è poco, no, di segnale. Tanto sta arrivando 9.15 con picchi quasi a 9.20 con questa. E la radio è spettacolare. Ma Rosa di Nafuzzi. Vabbè, sto facendo una prova a vedere canto. Però, cavolo, non è poco, mi 5 punti S in più, 5-6 punti S in più. Ma qua ci sei quasi, mi Antonio, già ben sì, chi ti allontani assai. Sì, 9.15 con picchi quasi a 9.20, 9.22 e 9.23, quindi sei lì, mi. Scappa, e pensa che io questa radio non l'ha dratto a bomba, No. Non ascolto molto. È che va bene così, quando c'hai 30 watt e 20 watt e picchi a 50-100, voi già voi. Quella è la potenza. Io sono con 20 watt, modulati 50, va bene. Ciao a tutti, baci e abbracci, ciao. Ciao. Ciao. Se piazza non andare in campagna, guai, cazzo, che è brutto. Lì già faccio suonare le cornabuse. Dopo te ne sono io. Ah, lì, la campagna, e col tempo quando l'attaccavo arrivavo 9.25 un po' sott'ombra, scusati. E poi il centro storico ce l'avevo proprio davanti. Figurati tu, da lì si può forte. Adesso dobbiamo decidere con Giovanna, forse vuole ripristinare la casa lì. se ci mettiamo le porte con quello che ci manca, facciamo tutto il coso, allora metti a frontenna, tanto le gaffe ci sono, metto le vigili 213 e quando scendo in campagna attacco questo e così mi diverto. Ma io oggi comunque c'è ancora una cosa, la campagna dov'è? La campagna è dove c'è Birissi, fissetta parola di Birissi, di fronte c'è proprio il terreno nostro, c'è. Non è quella che come gira la bretella si vede tutta la facciata, non è così la vostra casa? No, non è quella, quella lì è così. Dell'altro, poi ci sono le suore e dopo le suore c'è un guasto che abita lì in un robot che poi manco il terreno suo, quello. Ah, ora ci sono arrivato. Cioè la vostra è a posto, non è così? No, se a posto sono, c'è in pratica l'unico pezzo di terreno dove ci sono un bel di alberi. Poi appena più avanti degli alberi c'è questo nudere, diciamo, là. Adesso vabbè, abbandonato, bisogna sistemarlo bene. Però prima già scendevamo tutti i giorni lì, tanti anni fa, in campagna. Di Blackberry ci pigliavamo, io scendevo in moto, poi gli altri scendevano in macchina, ogni giorno eravamo inseminati lì, perché passava l'acqua, c'era l'acqua della fontana, che l'estate era ghiacciata, l'inverno era buzzente. Grazie, io sai, di solito l'acqua deve essere sempre fresca. Quando adesso puliamo e facciamo il posto per poter passare, ti faccio visitare quell'acqua, te la faccio toccare con mano. Ma c'è a tagliare erba? Sì, devo tagliare l'erba per poter fare il passaggio per la macchina, capito? Per poter passare in macchina fino al terreno nostro, poiché da lì c'è da tagliare i rovi, ci sono le piante di ciliegie, di melograni, tutto il pieno di piante, mele, eccetera, eccetera. Cavolo, ve la osservate per l'estate, grazie. Uva, la cucina, che cosa? Già lo so, infatti ci andavamo a cucinare lì. Facevamo sempre, c'avevo la lavatrice, ci mettevamo la legna dentro, accendevamo il fuoco, mangiavamo bistecche arrosto, poi mettevamo la birra direttamente lì, dove passava l'acqua, e bevevi la birra proprio a temperatura giusta. Un peccato lasciarla così, la femmina, se è a posto la casa... Se mi stai dicendo che è a posto, cavolo, sincero. Ma che dici, basta fare a venire in chivi, cosa ci state a fare in casa? A far nuda. Proprio andate sui sfogliatori, le lampi in tutto. E via. Io quando scendevo giù in campagna con gli sfogliatori la pulivo in una settimana, per essere esatti. Facendolo piano piano, una settimana. Il problema è che, capito? Che poi quando pioveva ricresceva il nuovo doppio di prima, il discorso è quello, la balla era quella che ho detto, io ho detto che ci andiamo giù a tagliare, io ho detto dopo due giorni piove, ero rotta di così, tagliavi per niente in pratica. Io una ghetta, ma c'è il sfogliatore a vita? Sì, c'è il sfogliatore a benzina, con la... non con quella fare di plastica, no? Quello in ferro per tagliare l'erba, capito? Però lo so, c'era due tempi al motore, ma grande cos'era? 50 cos'era? 52? E a mano me la mento, grande c'era grande, pesava. C'avevo pensato la catena, c'erano tre catene, se non mi tagliava a casa l'erba, un treno era. Bisogna stare attenti con la catena. Io lo so, bisogna stare attenti, sì, però tagliava bene la catena. ti basta il gatto anche delle mozzane. Sai che bastardo, questo tipo se ne approfittava di questi due anziani, allora sono grandi di età. Cazzo, ogni volta che ne faceva. Che ne faceva la pensione, bastardo. Ah, delinquente va sì. Perché non hanno. Aspetta, ammasso. Perché non hanno figli, capito? Anzi no, bugia, i figli ce li hanno. Se ne sono andati i figli. Che hanno chiamato le Iene perché hanno scoperto che questo tipo qua gli fregava i soldi. E poi lui ha detto che praticamente i soldi li aveva accompagnato questo tipo. Questo tipo dopo un po' ha negato che non l'ha accompagnato, allora gli diceva questo anziano per non fargli passare i guai che i soldi li aveva portati a casa. Cosa è successo? È arrivata la polizia in borghese, l'hanno perquisito e c'era tutta la pensione di questo qua dentro la tasca del giubbotto, 1100 euro. Figurati, non hai visto quelli che ci hanno fatto a posto di abitare in casa loro, si sono trasferiti per ritirarsi di cittadinanza, cioè, e si affittavano gli appartamenti, capito, che ci avevano. Gente di merda c'è purtroppo. E se non emigranti, ohia, quanto ce ne so. Vabbè, già ce li ha fatti venire quella esaurita qui, fece per lì. A un certo punto non voleva gli migranti per fare i pomodori, allora fargli fare i pomodori e dargli il reddito di cittadinanza, così ogni mese partivano e si portavano il reddito di cittadinanza in coso, in Africa, che in Algeria. Non va bene così, approfittarsene di queste persone anziane, ma anche quelle persone malate, non va bene, perché non è giusto. Non è giusto che tu lo accompagni e poi ti fai dare la pensione, ma di cazzo usemmo. Vabbè, comunque se uno va a assisterli, lui ha fatto lumacco, perché ha fatto lumacco. Se questo ragazzo andava a assisterli, però qualche cosa devono fare sempre. Lumacco non lo devi fare, devi far vivere tranquilli e bene. Capito? Invece no, molti pensano a loro che devono vivere male, non va bene così. No, allora, parole sue, a lui ha detto che andava ad aiutarli, faceva tutto lui e non voleva nemmeno un euro. Questo ha detto parole sue. Poi l'hanno perquisito e gli hanno trovato tutta la pensione addosso. E ti va aiuti secondo te. Se io ti prendo un esempio da te, un esempio da Pomponio vado, non voglio nulla, perché devo rubargli i soldi? Sta parlando di coso mio, te lo voglio fare di coso mio, no? E non voglio niente. Gappa, così ha detto, non è proprio coglione forse. Perché io parto dal presupposto che... Sono sempre partito dal presupposto che se mi chiami e fa andare a travagliare in Kiwi, non può fare la beneficenza. Quindi non lo faccio a prescindere, capito? Non che ti prometto quello e poi ti rubo i soldi, quello non va bene. C'è un bel gente che roffia, capito? Ne approfitta degli anziani. Ce n'è parecchia, purtroppo è così. I figli, vabbè, la colpa è anche dei figli, perché se ci fossero stati figli una cosa del genere non sarebbe successa, questo è poco ma sicuro. Ma ci sono anche dei figli che i genitori rubano i soldi, ma ti bari, ma per carità, che quasi pochissimi, magari cercano che magari sono metà la merda e costringono i genitori a farsi dare i soldi per comprarsi la droga, e se non glieli dai se voglio dire li picchia genitori, ma ne cazzo c'è, ma stiamo scherzando, forse. Ma vai. E poi basta la travaglia o vai a rubare, come fanno tutti? Ah, quella è una categoria che avrei cancellato, perché se tu vai, cioè, tu non puoi comprarti la merda per rubi soldi, no, se fa comprarti a magna, ok, ma per comprarti la merda, no. Sì, ma comunque c'è gente di merda, tu, cioè tanto non hai i genitori, capito? Se non gli danno i soldi li picchiano anche, ma cioè, quanti qualche figlio hanno ucciso i genitori. Un bel. Ogni tanto se ne sente uno, vabbè, questo è incontinente, è successo. Perché lui aveva solo lì per comprarsi la droga, gli hanno ucciso, a padre che madre. No, sono gente di merda. Aspetta, ora proprio che ti senti di bene, adesso ti compravo 60 e sei a posto. Che cosa, MC60? Ti compri un MC60 e sei a posto, ma non che gli adatti un MV4. No, oh, c'è un microfono. Aspetta che l'attacco. Se no che c'è il vento dell'antenna, capito, della canna pesca, adesso ormai la stacco, così almeno mi la fischia. Aspetta che ti facciamo sentire le MV5. Ascolta, a me come lo stai alimentando con quelli cinesi? Stanno a prendere cose. Anche io non alimento un bicio, non funziona. Della matta si macca di chi tu. Dichiedo del computer. Sì, link, vabbè. Sì. E tu ho lasciato la marina, tu. Sabato non ci vediamo. Sodo, così ti usi quello e sei più tranquillo. Perché io ti dimostro la componentistica di uno originale e la componentistica cinese, cineseria. Anche il cavo di quello cineseria. Sì, funziona, perché già l'hai visto, l'ho testato, mi segna bene, però anche il cavo, lascia il tempo che trova, sono capi di merda. Cavo, ma secondo me quello che ho preso io è più buono, di chissà, di San Gaggadda, perché uno grazie a uno perché tua madre in Cina, e l'altro perché tua madre in PRC. Vabbè, sembra la Repubblica Popolare Cinese sarà, però magari è di costruito di merda. Io c'ho quello cinese, cioè. Ecco, mi ascolti, questo è del 2005. Malissimo. No, ma sei Tony. Cazzo, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. No, non è meglio normale. 1, 2, 3. Dietro, capito? Così? Va dietro, fa. Comunque adesso sono qua vicino a microfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ti fa dietro, ma faceva anche una potenza delta. So già cos'è. E l'antenna che c'è piazzata vicino, capito? Che mi fa dietro. Guarda così, la testa di una cosa esce, ho migliorato. Era meglio quello là. Ho detto, guarda se è migliorato un pochettino. Così fischia. Così sono a livello 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po', migliorato. Così è già andato. Ci vuole il suo microfono per compare lì. Vabbè, ma c'è un vento, capito? Devi capire che c'è il cavo delle 58, non c'è le regge 213. Poi c'è l'antenna di fronte che... hai capito che mi crea problemi. Fa rientro, quindi è per quello che fischia. Ma me lo faccio avanti senza delta, conservo tanta figura di tu. Poi riuscite a eliminare il difetto facendo una specie di massa a terra che partiva dal microfono fino ad arrivare alla... del tubo del riscaldamento, capito? Gamba. Beh, lo fa un po' un mese dopo, anche se un bel tracco, dopo. E vi auguro anche una buonanotte, vi auguro. Buonanotte, buon po', ci risentiamo, al prossimo. Adesso voglio fare un passaggio con l'antenna piccola col portatile e poi vi saluto, ok? Eia, sono passato col microfono dal mare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. È meglio, pompo. Già va bene. Adesso male quando stacco con l'antenna vedrai che cambia. Capito, cambia anche il cavo, dato che ci sono, c'è la legge 213, stacco la legge 58, ci metto il 213. E cambia la situazione. situazione, totalmente. Ehi, mi senti altro me? Sì, che ti sento. Puoi insegnare, sono con un'antenna piccola e col portatile. 9,5. Però, non male. Cosa vuoi di più, Lucano? Qui c'è un roccio di coboro al portatile. E andava. Dai, riprendi tu l'una, c'è più piana. Già mi senti pure tu, sì. Sì che ti sento, vabbè, dai. Mi sa che anch'io chiudo, che ne sono? Sono già le 10 passate, dai. Mi guardo un po' di TV, mi vado lì, dai. Vediamo un po', da farlo vedere. A domani, se Dio vuole. Ciao a tutti, ciao Pompone. Saluta Massanto, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao Antonio, ciao Luca, ci sentiamo domani.